Linee d'ombra di Matteo Caccia. Fondamentale, fino a quell'ora del tè non avevo pensato cosa volevo fare da grande, non avevo per nulla le idee chiare, evidentemente arrancavo ancora. Mi guardò e con fare deciso mi disse: tu devi lavorare, sei in crisi, devi trovare un modo di essere concreto. Storie di un incontro importante e di una radio clandestina in una puntata che si intitola Liberazioni. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. E questa voce, che qualcuno forse avrà riconosciuto, arriva direttamente da là, dal 25 di aprile del 1945, quando la radio di Stato comunica che la guerra è finita. Io devo dire, nella mia vita non ho mai pensato di poter realizzare quale fosse la liberazione che arrivava in un momento come quello. Cioè, dopo anni e anni di vita costretta in casa a nascondersi oppure a dover scappare, sfollare dalle città per andare a stare nelle campagne, insomma attendere che una guerra finisse, ho sempre pensato che non avrei mai, fortunatamente, sperimentato che cosa volesse dire sentire una voce che diceva: la guerra è finita, cioè torniamo alla pace. E questo periodo, anche se io sono d'accordo con tutti quelli che sono contrari a utilizzare un linguaggio e delle immagini, delle metafore di guerra per trattare la situazione legata al virus, sono assolutamente d'accordo con quelli che non vogliono usare questo linguaggio, dicevo, eppure io credo che se mai arriverà un momento in cui ci diranno: ok, potete cominciare ad uscire, magari scaglionati, magari sicuramente seguendo tutte le accortezze del caso, ma potete uscire, ecco, io credo che probabilmente una piccola parte di quella sensazione la sperimenteremo. Questa, tra l'altro, non è una voce qualunque, vi dicevo, è la voce di Corrado Mantoni. Corrado Mantoni altri non è che Corrado, cioè il giornalista televisivo che tutti noi, perlomeno della mia generazione, abbiamo conosciuto dal Pranzo è servito in avanti. Si chiamava appunto Corrado Mantoni ed è stato un conduttore televisivo, tutti lo conosciamo per quello, ma è stato un giornalista, è stato un conduttore radiofonico, è stato soprattutto un conduttore radiofonico, nel senso che lui è stato di fatto uno, probabilmente il primo vero conduttore ufficiale della radio italiana. E questa è la sua voce, è la voce di un uomo che comunica ai suoi concittadini, alla sua gente, che la guerra è finita. Domani è il 25 di aprile, ripeto, non stiamo vivendo una guerra, ma stiamo vivendo una situazione come non si viveva probabilmente da quegli anni, una situazione simile di costrizione, di obbligo, e probabilmente di difficoltà non solo presente ma anche futura. E quindi in una puntata come questa, in cui si parla di liberazione, abbiamo deciso di parlare di liberazione, infatti la puntata si intitola proprio Liberazioni, abbiamo aperto con questo annuncio che speriamo risuoni un pochettino per tutti come una speranza. Vi racconteremo storie di persone che si liberano, ad esempio, dal fardello dell'inettitudine, della disoccupazione, e che trovano un lavoro in tempi remoti, non sono questi, insomma il lavoro un tempo si trova in maniera più facile rispetto a come si trova ora, e poi invece raccontiamo un'altra storia ancora, che è una storia che arriva proprio da una radio, le radio clandestine di quegli anni della guerra, che facevano informazione, che facevano un po' di intrattenimento, poi davano informazioni sugli italiani che stavano combattendo sulle montagne. Questa è Linea d'ombra, mettetevi comodi, benvenuti. Hai lezione oggi? Sì, fino alle 4. Allora dopo ci vediamo da Emilia. Accettai così l'invito di Giorgio. Emilia era un'amica comune, anzi allora era solamente una collega. Lei, navigata politica, assessore alla sanità, di illustre famiglia siciliana, mandata nel laboratorio Emilia, e non poteva essere diversamente visto il nome, era lì per farsi le ossa. Giorgio ed io eravamo due amministratori alle prime armi di un comune e soprattutto due studenti in cerca di identità. Appena arrivati, Emilia ci servì il tè. Già da quell'azione, la bevanda servita col piattino del servizio buono, capì di essere alla presenza di una donna raffinata, nonché colta e di buone maniere. Ogni volta che mi incontrava, fossi in qualunque parte del mondo, anche in autobus, si avvicinava e, porgendomi la mano, mi chiedeva come stavo. Erano gli anni 70, avevo poco più di 20 anni e il mio modo di salutare era solitamente molto parco e non prevedeva mai la stretta di mano. Solo mio zio, artigiano di buone frequentazioni, cominciò a porgermela appena dismessi i pantaloni corti. Ci sedemmo sul divano, talmente scomodo che starci seduti a reggere nel contempo la tazzina del tè sul piatto era un'impresa non di poco conto. Lo sforzo di equilibrio che ero chiamato a fare mi impediva di prestare attenzione nei dovuti modi alla conversazione che Emilia aveva avviato. Inoltre, i jeans che indossavo erano chiaramente di una taglia inferiore a quella necessaria. Il bottone superiore e la cerniera erano in grande tensione e prossimi all'esplosione. Vista la mia scarsa attenzione, Emilia mi rivolse la parola e, sviando dalle osservazioni politiche fin lì oggetto di quella conversazione, la portò su di un piano molto più alla mia portata. «Bevi il tè senza zucchero?» mi chiese. «Sì, anche il caffè», risposi. La domanda mi dette modo di trovare sicurezza e renderla edotta del fatto che chiunque avesse lavorato presso uno zuccherificio detestava il prodotto finale. Non certo per questioni igieniche, come qualcuno adduceva. Il mio diniego all'uso dello zucchero era proprio un fatto di gusto. Il dolciastro, solo avvertire il suo odore, mi infastidiva. Meno mi infastidiva invece il lauto stipendio che derivava dal fare quel lavoro durante la cosiddetta campagna saccarifera. Col primo stipendio acquistai un'auto usata di 4 anni e mi rimasero fondi per provvedere all'assicurazione e ad un pieno di benzina. Emilia mi chiese lumi sul tipo di lavoro e credo rimase impressionata dalla competenza che mi ero fatto lavorando nelle estati precedenti. Mentre ormai padroneggiavo piatto e tazzina, con l'eleganza portavo tè alla bocca, Emilia passò impunemente a un altro argomento. «Come vanno gli esami?» mi disse. Ero iscritto a filosofia perché avevo degli interessi che solamente con la storia della filosofia potevi approfondire. All'epoca, se volevi fare psicologia, c'erano poche facoltà dove la potevi studiare e un modo per accedervi era quello di fare prima filosofia. E ho capito subito che esaurivo in un attimo all'interno del percorso le cose attinenti alla psicologia, tant'è che l'insegnante di psicologia, quando lui seppe delle mie intenzioni, mi disse: «Sai, questa intenzione cambia strada, perché qua non è la facoltà giusta». E quindi questo mi aveva un po' tarpato le ali. Quindi, insomma, arrancavo un po', avevo già dato qualche esame, ma arrancavo un po'. Poteva chiedermi perché avessi perso 6-1-6-1 l'ultima finale di tennis disputata, ad esempio, perché non avessi la ragazza. Poteva chiedermi perché vestivo sempre con i jeans, magliette e scarpe da tennis. Poteva chiedermi perché ultimamente mi ero troppo affezionato ai piatti colmi di tagliatelle con il ragù, ma chiedermi degli esami era proprio una vigliaccata. E per di più, davanti a Giorgio, che non perdeva tempo per sollecitarmi quotidianamente ad andare avanti. «Ne ho dati 2 di esami», dissi con un tono basso, quasi per scusarmi del pessimo risultato. «Invece di?» mi disse lei. «Invece di 4». «E che intendi fare?» continuò ad incalzarmi Emilia. «Ma», dissi io. Emilia alzò gli occhi come per trovare qualche suggerimento sul soffitto, dove anch'io rivolsi lo sguardo, e notai un proliferare di ragnatele. Qualche secondo di contemplazione, poi guardo Giorgio alle prese con l'ennesima sigaretta, come per trovare assenso, e con fare deciso mi disse: «Tu devi lavorare, sei in crisi, devi trovare un modo di essere concreto». Il consiglio così perentorio e per di più uscito dalle labbra di una psicologa meritava giusta considerazione. «Ho sempre lo zuccherificio, fra qualche mese sarò richiamato», dissi io. «No», disse lei, accompagnando quel diniego con una mimica facciale maggiormente tipica di noi popolari padani piuttosto che di una siciliana di buona famiglia. «No», continuò, «pensavo a qualcosa più inerente a quello che stai studiando». Well, it's coming on to 13 years together, babe. I pray that it's a luck, a lucky, lucky number. And although I know I've brought you joy and happiness, babe, I've also been a fuck for country, source for anger. Poco io avevo abbandonato l'idea di continuare gli studi in filosofia per addentrarmi nel mondo dell'educazione, la pedagogia a indirizzo psicologico. C'è un corso annuale, un master si chiamerebbe oggi, a numero chiuso, per operatore sociale di base, mi disse. Ah, e cosa fa un operatore sociale di base? Chiesi io. Emilia cominciò a enumerarmi una serie infinita di possibili mansioni, mettendole in relazione con tanti studiosi a me per lo più sconosciuti. Cercando la complicità di Giorgio, che smise i suoi usuali panni da incallito contestatore e visionario di infiniti complotti, annuendo in modo, direi, servizievole alle indicazioni dell'amica. Emilia mi faceva entrare in un mondo affascinante quando, finalmente, capì la concretezza della definizione di operatore sociale, che era educatore all'asilo nido. Un maschio all'asilo nido? Chiesi io con disappunto, ovviamente tutto maschilista. Emilia non rispose alla mia domanda e non ricorse al linguaggio che in quegli anni si stava affermando fra le mie amiche e le giovani donne in particolare, specie fra quelle che si incontravano in un'aula messa a disposizione dal magnifico rettore più per codardia che per convinzione. Già verso quelle ragazze noi ragazzi avevamo un po' di timore, sempre sole, cioè solo ragazze, in democratico cerchio riunite a discorrere mentre molte di loro, dotate di appositi ferri, confezionavano maglioni. Non ricordo in realtà tutto quello che Emilia addusse per convincermi. So che in quel momento, più che collega politica, amica, era diventata una sorta di mamma. Al termine della sua dissertazione chiesi che dovevo fare per partecipare. Lei candidamente mi disse che le occorreva fare una domanda entro le ore 12 del giorno successivo. Aggiunse che le domande erano tante e che lei faceva parte della commissione che doveva esaminare i candidati. Alla notizia corrispose un mio sorriso, come per dire, beh, allora sto tranquillo, no? Fondamentale è stato proprio quel tè. Emilia capì probabilmente una cosa, che io avevo bisogno di toccare con mano concretamente qualcosa. Avevo bisogno di passare da un'idea così un po' inconcludente a qualcosa di pratico e lei mi suggerì, mi dette proprio lo strumento per capire da solo questo tipo di proposta, insomma. Emilia, guardandomi, mi disse: non preoccuparti della mia presenza in commissione, quando sarà il tuo turno dirò che sei un conoscente e uscirò per non influenzare i commissari. Che fortuna, pensai tra me e me, avere un'amica integerrima e scevra per ogni accondiscendenza all'italico metodo della raccomandazione. Fu così che quel tè, in un lontano pomeriggio di fine primavera, cambiò radicalmente la mia vita. Partecipai al bando, fui tra gli ammessi al corso annuale e prima ancora di terminarlo fui chiamato a lavorare in un asilo nido. Trovai in un primo momento qualche difficoltà da parte dei genitori un po' troppo tradizionali o pieni di pregiudizi, ma poi conquistati i bambini non mi fu difficile ottenere uguale risultato prima fra le mamme e poi fra i papà. Anni dopo ho trovato un'altra strada, riciclandomi all'interno dello stesso ente, sempre operatore, non di base ma culturale. Da pochi mesi sono diversamente lavoratore, ma posso dire di avere lavorato per 43 anni e 7 mesi divertendomi. Sì, un bel lavoro, grazie a quel tè a casa di Emilia, su invito di Giorgio. Si intitola Liberazioni la puntata di oggi, per diversi motivi, un po' perché domani è il 25 aprile, come abbiamo già ricordato, ed è la festa della liberazione, ma un po' perché noi abbiamo immaginato, noi qui in redazione, un po' la nostra idea, che quando uno trova un lavoro anche in maniera rocambolesca, come ha fatto Tiberio, in un'epoca in cui si poteva trovare probabilmente un lavoro in questa maniera, oggi è un po' più difficile, di fatto quando uno trova un lavoro si libera da un fardello. Cioè si libera dal peso di non avercelo quel lavoro. Poi in realtà si trova invischiato in orari e in obblighi, ma tant'è, insomma è un lavoro, è fortuna che c'è, è fortuna che lo troviamo, un lavoro quando lo troviamo. E quindi insomma ci siamo immaginati che in qualche modo anche l'avere trovato un lavoro per Tiberio sia stata una forma di liberazione. Pronto, ciao Tiberio, buongiorno. Buongiorno. Senti, è andata così sì. Anche per te? Cioè quel giorno tu hai sentito di esserti liberato da un peso? Sì, non è stata immediata la comprensione che avrei trovato un lavoro, anche se diciamo quel partecipare al corso lo dava quasi per scontato. Non pensavo che i tempi fossero poi così veloci come sono stati, e quindi sicuramente c'è stata una liberazione, doppia se vuoi, anche perché sentivo la frustrazione di studiare e non trovare una concretezza immediata. L'applicazione nello studio c'era, ma la resa non era quella che mi aspettavo. Certo. Senti, alla fine quanto l'hai fatto l'educatore al nido, giusto? Sì, l'ho fatto, diciamo, con continuità all'asilo nido per poco più di 3 anni, okay. E per un tempo molto più breve in una scuola materna. Okay. Direi però per nulla significativa rispetto all'esperienza dell'asilo nido, e tra l'altro un lavoro pionieristico, perché in un convegno che si fece, ricordo, a Prato, scoprì che in Italia eravamo in 2 maschi a fare quel lavoro. Quindi... In che anni, scusami Tiberio, in che anni? Siamo alla fine degli anni 70. E quindi tu ad esempio, scusami Tiberio, hai mai sì. incontrato da adulto uno dei bambini che da piccolo hai accudito, diciamo così, o hai educato? Sì, con alcuni sono... Qualcuno ancora mi incontra e mi chiama ancora Dado, tu pensa, alla mia veneranda età, e con qualcuno sono rimasto molto legato. Cioè, sono nate delle amicizie nonostante la differenza di età, perché sai, era importante per gli educatori avere dei punti di riferimento, che da un punto di vista pedagogico non era proprio la cosa più bella, no? Ma era importante anche per i bambini, perché vedevano delle figure adulte al di fuori della loro famiglia. Certo, e, certo. E quindi, sai, avendo le scuole anche una vicino all'altra, essendo rimasto nell'ambiente anche con ruoli diversi per tanto tempo, e quindi c'è stata una continuità che ancora... I saluti e gli auguri non mancano mai con alcuni di questi bambini. Senti, invece Emilia, che è stata un po' la fautrice di tutta questa... Che fine ha fatto? Di Emilia non so niente, l'ho vista l'ultima volta 20 anni fa, e l'ho anche cercata, ma non l'ho più trovata. E Giorgio invece? No. Sì, Giorgio è un caro amico, e quindi tra l'altro in questi giorni, a 24, raggiunge un grande traguardo di età, perché diciamo, se sentirà questa conversazione sarà un regalo di compleanno, dopo 70 anni. Ah, beh, allora gli facciamo un sacco di auguri. Senti, tu hai dei figli, Tiberio? Sì, due. Quanti anni hanno? Che hanno risentito un po' del mio lavoro, 28 e 20. Okay. E hanno risentito il mio lavoro perché io ho continuato ad occuparmi, diciamo, di bambini così per divertimento. Ho scritto tante favolette che poi una delle dade dell'asilo me le illustrava, anche altre, ma in modo particolare una dada che lavorava con me, e quindi loro sono stati le mie caghe, no, per questi libricini, quindi hanno subito questa cosa. Scusami, la chiami dada e ti chiamano dado perché è il nomignolo ufficiale degli educatori all'asilo? Sì, diciamo, anche, sai, nelle famiglie una persona adulta viene è abbastanza in disuso, ecco, come termine, da sì, quanto infatti, ne so. Te lo chiedo, però qualcuno continua a farlo, ma è un po' così per esprimere affetto e simpatia, quindi... Certo. Senti, com'è la situazione? Perché per anni mi sono firmato anche così. Scusa, non ho capito la domanda. Qual è la situazione adesso del tuo lavoro rispetto a questa emergenza che stiamo vivendo? Beh, guarda, io sono in pensione da alcuni mesi. Ah, avevo in parola alcune collaborazioni cui stavo lavorando, che adesso ovviamente ho interrotto, e quindi passo il mio tempo a divertirmi, a leggere e a scrivere. Tiberio, in bocca al lupo per tutto. Ok, e grazie, a presto, grazie mille. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare di nuovo qui a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra. Qui Radio Nordovest. Parla Radio Nordovest, la vita per l'Italia. Trasmissione dei patrioti della divisione Valtoce. Le nostre trasmissioni si effettuano ogni sera dalle ore 21 alle ore 23 su lunghezza d'onda di 1,38 m pari a chilocicli 7936. Avvertiamo gli ascoltatori che, intervallate fra i brani musicali, daremo lettura di notizie e messaggi per i congiunti lontani. Con questo incipit si apriva tutte le sere, dall'inverno del 44 al giugno del 45, il bollettino quotidiano di Radio Nordovest, una radio clandestina dei partigiani della Valtoce, in Piemonte, che andava in onda da Stresa, sul Lago Maggiore, e aveva come compito quello, oltre che di fare informazione, di intrattenere con musiche e stornelli e di rassicurare le famiglie dei partigiani delle loro condizioni di salute. Noi abbiamo trovato i testi delle trasmissioni in onda in quei giorni nell'archivio dell'Istituto Ferruccio Parri e in questa puntata, che si intitola Liberazioni, la seconda sera di oggi è un resoconto di fine guerra proprio di Radio Nordovest. La guerra europea è finita. L'Italia del Nord, liberata dai suoi figli migliori, sta per congiungersi anche spiritualmente con l'Italia centro-meridionale. Non è il caso di indagare sulle previsioni più o meno benefiche dall'incontro di coloro che da un anno già portano i segni della liberazione con coloro che sono appena usciti dalla fase insurrezionale. Un fatto appare però chiaro, che la voce più forte, il peso più incisivo, il tono morale della ricostruzione verranno dal nord, dalle coscienze maturate attraverso il dolore e il sacrificio. Ecco perché diciamo, noi patrioti, anche se le nostre informazioni stanno per sciogliersi come organismo partigiano militare e tutti riprenderemo la nuova vita del lavoro, tanto necessario alla patria mutilata, non perderemo mai lo spirito e gli ideali che ci hanno animato per 18 mesi. Noi patrioti non permetteremo che vada disperso, per parte di speculatori, di arrivisti o di disonesti camuffati, una sola delle conquiste raggiunte, di cui la più grande è la libertà. E la più elevata è la coscienza di questa libertà. Noi patrioti non daremo tregua, dai nostri posti di lavoro a tutte le forme di malafede, di ingerenza anonima e responsabile che hanno tanto danneggiato l'Italia di ieri, e non cadremo nei metodi di repressione che ci hanno preceduto. La migliore opposizione che si possa fare ad un regime passato che ha due volte condotto l'Italia in un abisso sociale e morale di vergogna sotto il falso passaporto di un presunto immaginario onore è nella collaborazione spassionata, nell'attendere gli interessi comuni in modo tale che nulla vada disperso nei prossimi anni di assestamento politico ed economico. Garbato amore mio, ti voglio anch'io e me ne devo. Che poca voglia di fare il soldato, io sono nato per stare qui. Che poca voglia di fare il soldato, io sono nato per stare qui. Se in questa guerra morissi anch'io, amore mio, non ti disperare, che in ogni posto lontano dal cuore c'è sempre un fiore che la guardia ci fa. In ogni posto lontano dal cuore c'è sempre un fiore che la guardia ci fa. Garbato amore mio, ti dico addio che me ne devo. Che poca voglia di fare il soldato, io sono nato per stare con te. Che poca voglia di fare il soldato, io sono nato per stare con te. Thank you. Tutti gli italiani devono tendere lo sguardo avanti e non indietro, perché davanti a noi c'è purtroppo un campo di dolore e desolazione a cui occorre conforto. L'avvenire dell'Italia è un problema da risolvere e non è un cimitero su cui piangere. Le energie vanno chiamate all'opera più ardua della nostra storia. In nome di tutto questo, in nome dell'Italia che ha bisogno di noi, senza compromessi e indugi, di carattere personale o di partito. Siamo dunque italiani, responsabili di ciò che facciamo. La parentesi della liberazione non è ancora chiusa. Tendiamo gli sforzi per ristabilire l'unità d'Italia nel più breve tempo possibile e prepariamo ai nostri figli una strada che abbia soprattutto un significato etico, una consacrazione del lavoro dell'uomo, un'educazione profonda ai diritti e ai doveri della libertà. La libertà è sempre una condizione morale che va meritata. Noi patrioti lontani dalle montagne che ci hanno accolto nei lunghi mesi di ansioso lavoro, lontano dai luoghi che ci hanno veduto giungere come alfieri di liberazioni, lontane dalle popolazioni che ci hanno dimostrato commossa gratitudine, non dimenticheremo questo passato, perché proprio da esso abbiamo preso e prendiamo la forza dell'impulso ricostruttivo. Noi patrioti, anche senza le nostre divise, anche privi delle armi micidiali, sapremo conservare l'arma meno vulnerabile e più fattiva. La coesione degli spiriti rivolta ad un solo e fondamentale compito: rifare l'Italia. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. No, no, no. Gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Era per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Era il 25 di aprile del 1945, erano esattamente 75 anni fa. Oggi, o meglio domani, è il 25 di aprile del 2020. Per celebrare l'anniversario della liberazione vi abbiamo letto questo pezzo che arriva proprio da quegli anni, arriva proprio da quel giorno. È un incipit che, come vi dicevo in apertura, arriva il giorno del 25 di aprile del 1945, che di fatto detta le regole secondo i loro, la loro opinione, secondo i loro ideali ovviamente, di come dovrebbe ripartire questo paese. E leggerlo adesso, leggerlo in questo momento in cui è ancora tutto chiuso e davvero pensiamo alla libertà come a un atto di liberazione dalle case in cui ci troviamo, fa un certo effetto e devo dire che è anche molto interessante da riraccontare e da risentire. Per chi avesse voglia di approfondire questo aspetto e di sapere di più sulle radio che all'epoca operavano, sulle radio, le cosiddette radio partigiane, potete trovare tutto tutto sul sito dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, della Casa della Memoria di Milano. Insomma, ci sono tutti i contenuti che cercate, oltre che ovviamente sul sito dell'ANPI. Ora trovate le strade in diretta, che ci raccontano come sono messe le nostre strade, credo molto serene e molto libere, come dovrebbe essere, e poi torniamo a raccontare i vostri diari dalla quarantena, qui a Linea d'Ombra. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Linee d'ombra. Uno dei settori maggiormente colpito da questa emergenza è il settore dello spettacolo. Se ne è parlato qua e là, c'è stata qualche polemica legata ad esempio a Tiziano Ferro, perché la gente diceva: ah, certo, adesso i cantanti, ma ovviamente il mondo dello spettacolo non sono solo le star, non sono solo i grandi cantanti o i grandi attori, sono anche le persone che quotidianamente lavorano sui palchi, lavorano nel mondo dello spettacolo in generale, lavorano banalmente nelle biglietterie dei teatri, dietro le quinte dei teatri, lavorano nelle scuole di formazione teatrale o, come nella storia che sto per raccontarvi, lavorano coi bambini, fanno il teatro per i bambini. Per loro la situazione è la stessa, perché chiaramente tutto ciò che prevede presenza di persone contemporaneamente in un unico spazio è annullato o quantomeno sospeso. E questa storia ci racconta come una coppia di lavoratori dello spettacolo, una coppia della vita, mi pare di capire, e di lavoratori dello spettacolo dedicate in particolar modo al teatro per i bambini, cerca di barcamenarsi in questo momento. Il metodo più o meno è il solito, cioè è da casa usare il web, usare internet per cercare di tenere vivo il proprio lavoro e l'interesse delle persone che ti seguono. Siamo Carmen e Francesco, o meglio Carmen e Rustichello, due raccontastorie, attori e formatori di teatro per bambini. Con i nostri spettacoli scritti, diretti e musicati da noi ci impegniamo a diffondere la cultura del teatro e della narrazione come strumento oltre che di divertimento e di conoscenza. Lavoriamo molto nel nostro spazio e ancora di più con le scuole. Siamo riusciti a lavorare tanto per tutto questo anno scolastico e soprattutto a Carnevale, durante il quale ogni giorno per teatri, scuole, piazze, ludoteche, librerie abbiamo messo in scena uno spettacolo diverso dal nostro repertorio. A volte anche due, aumentando il divertimento ma anche il carico e lo scarico delle scenografie, delle attrezzature. Poi, tra capo e collo, si è abbattuto questo virus e lentamente il cerchio si è stretto. Partivano i rinvii, gli annullamenti delle date, poi sono stati chiusi i primi teatri, le scuole, ci siamo detti poco male, lavoriamo nella nostra piccola sede, con i nostri laboratori di teatro e poi recupereremo. Poi è arrivato l'obbligo di mantenere un metro di distanza durante tutte le attività. A questa regola abbiamo risposto facendo ricorso a tutta la nostra fantasia, elaborando nuovi divertentissimi esercizi teatrali che hanno divertito sia i gruppi di bambini e adolescenti sia i gruppi di adulti, mantenendo naturalmente la distanza di 100 centimetri. Poi, infine, è giunto l'obbligo, giusto, di fermare tutto, di restare in casa e limitare il più possibile i contatti umani. Il nostro lavoro è contatto umano e quindi si è interrotto. Abbiamo chiuso la sala cinesca del nostro laboratorio e assieme alla serranda scendevano anche piccole gocce calde sui nostri visi. Poi, quando abbiamo dato gli ultimi giri di chiave, anche il nostro cuore ha scricchiolato per simpatia, rompendosi in mille pezzi. Tornati a casa, abbiamo cominciato a mettere in ordine le nostre cose, cose di casa e cose di lavoro. Due giorni passati sul divano a leggere e a pensare. Poi l'idea: mettere le nostre storie in rete con le nostre canzoni come saluti mattutini a tutti i bambini che frequentano le nostre attività e seguono i nostri spettacoli. Dal primo video abbiamo ricevuto un bel riscontro da parte dei nostri piccoli amici e tanti ringraziamenti da parte dei genitori e insegnanti che si meravigliavano della nostra passione e della nostra determinazione. I bambini, soprattutto quelli che non sanno leggere e scrivere, i più piccoli, ci inviano dei messaggi vocali con ringraziamenti e richieste. Domani una storia sul papà, mi raccomando, o una storia sugli animali. Tutto questo lavoro che porta via l'intera mattinata e il pomeriggio non ci porta ovviamente nessun guadagno, ma di sicuro ci tiene vivi, impegnati, allenati, dobbiamo essere pronti e divertenti ogni giorno per andare in scena, in forma, come sempre. Siamo lontani dai bambini, non possiamo vederli, eppure qualche genitore ci invia la foto di un bambino davanti allo schermo del PC intento a disegnare una delle nostre scene. A volte ci ripetiamo anche noi che tutto andrà bene, proprio come nelle storie. Forse è per questo che non smettiamo di raccontare, perché alla fine di questa brutta storia ci sia un lieto fine. Still get E ora chiudiamo questa settimana di Linee d'Ombra con il quinto episodio della storia di Irene, che ci sta raccontando la sua esperienza col Covid-19, sua, di suo marito, ma anche di suo figlio, che di fatto non ha potuto vedere i genitori che si sono malati. Si sono malati a Firenze, dove vivono, e prima il marito è peggiorato molto velocemente, è riuscito a ottenere un trasferimento in ospedale grazie ad un amico medico che ha permesso loro di convincere un ospedale ad accettarlo. Poi però la situazione è precipitata anche per lei, perché lei ha cominciato a stare male, quindi ha chiamato un'ambulanza, e ora capiamo che cosa succede. Io sono andata sul 118 e purtroppo ho trovato un'operatrice, insomma, per paura o per protocollo di nuovo, non lo so. Comunque non mi ha fatto prendere niente. Io mi ero preparata due pigiami, cioè, sai, ciabatte, quelle tre cose, uno zainetto, niente, non ho voluto che prendessi niente. L'ambulanza per il mio ricovero è stata decisamente più facile da ottenere rispetto a quella per mio marito, ma la situazione è precipitata in maniera anche comica subito dopo. L'infermiera, evidentemente stanca e spaventata dalla situazione, mi ha imposto di non prendere niente a casa, di non portarmi dietro niente, dicendomi che tutto quello che avevo a casa era contaminato. Ma io cosa faccio? Le ho chiesto. Non so quanto ci devo stare in ospedale. Ma lei non ha voluto sentire ragioni. Io avevo preparato una valigia con poca roba, qualche pigiama, un po' di biancheria intima, due asciugamani, il sapone e l'olio di mandorla per il pancione, ma mi ha fatto lasciare tutto a casa. Ho potuto prendere soltanto un pigiama e la cartellina degli esami della gravidanza, tutto assieme in un sacchetto di celofan. Non avere nemmeno un cambio ha rappresentato un problema fin da subito. Come donna incinta non potevo farmi salire la febbre più di 38, dunque mi davano dosi massicce di tachipirina per farmi sfebbrare, quindi sudavo tantissimo, ma non avevo cambi. Dovevo andare spesso in bagno, ma non avevo ciabatte. Tutta la mia famiglia in quarantena, quindi nessuno poteva venire. Comunque isolamento totale, non puoi vedere nessuno neanche dal vetro, assolutamente. Però volendo, poi al reparto ti potevano portare qualcosa, cioè ti potevano lasciare qualcosa fuori dal reparto e le infermiere te lo portavano dentro. Certo. Solamente che nessuno poteva uscire di casa. Mia sorella sarebbe venuta sicuramente a portarmi dei cambi, ma essendo in quarantena a causa di mio figlio non poteva assolutamente uscire di casa. L'unica soluzione è stata quella di chiedere a degli amici attraverso WhatsApp di portarmi quello che mi serviva. Io non sapevo però che certi articoli non si potevano più né vendere né comprare. Prima che io mi ammalassi ancora non erano state imposte certe restrizioni. Anche loro, che potevano uscire ed eventualmente portarmi qualcosa, non potevano comprare niente, perché anche al supermercato, oltre alla parte alimentare, non vedevano altro. Ma io non avevo bisogno di cibo, avevo bisogno di cambi, di mutande. Quindi se sei in ospedale e hai bisogno dei cambi, ti arrangi. Quindi ci hanno portato loro, roba loro, ce l'ha lasciate dove ci hanno detto che lo potevano lasciare e ce l'hanno portati dentro, perché io non sapevo come fare. Cioè, è veramente, poi per carità, rispetto al resto, anche quella è una difficoltà. La protagonista di questa storia si chiama Irene. Noi la ringraziamo perché questo racconto ci fa capire un sacco di cose. Ci fa capire un sacco di cose minuscole che non hanno a che fare solo con la malattia, che non hanno a che fare solo con il fatto di avere una tosse molto forte, di fare fatica a respirare, di avere una febbre altissima. Ci fanno capire quelle minuzie, quei dettagli della vita quotidiana che quando ti ammali di questo virus fai fatica a gestire, perché i familiari, perché gli amici non li puoi vedere perché sono sparpagliati, uno in ospedale, uno a casa non può uscire e tu banalmente hai bisogno di un pigiama e non riesci ad avercelo. Grazie per la sua storia, spero che in qualche modo aiuti tutti quanti a conoscere meglio questo mondo, il mondo che stiamo vivendo in questo momento, perdonatemi, e che alcune persone stanno vivendo molto molto da vicino, e a tutti loro va il nostro pensiero. Grazie ad Anita Panizza, grazie a Luca Micheli, a Mauro Pescio e a Paolo Corleoni, grazie a Radio 24 che continua a farci fare in questa ora dalle 15 alle 16 un piccolo pacchetto di storie da regalarvi per poter fuggire un pochettino con la vostra testa o con la vostra pancia, ovunque risuonino le storie che vi raccontiamo. Ora va la linea al GR, noi torniamo lunedì, godetevi per quanto possibile il fine settimana, noi torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!